pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Avrei fatto di tutto per non ritornare su questo argomento, ma il desiderio di una riflessione mi impone a riparlare di Sanremo. Ma non tanto del Festival di Sanremo, che sarebbe argomento frusto e sciatto, ma di un episodio all'interno del Festival di Sanremo, anzi l'episodio principale, quello su cui oggi si accapigliano i giornali, legato al Festival di Sanremo. Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io la prima volta che ascoltai questa canzone, ne siete testimoni voi che mi avete ascoltato commentarla, ne fui fortemente indignato. La considerai una profonda, radicale, vigliacca e superficiale presa per il culo degli italiani che l'ascoltavano. Pupo che dice al rampollo Savoia: tu che sei stato incolpevolmente mandato in esilio, non avevi fatto niente. Cioè, va bene, non è che si gioca così con la storia. Ma devo sempre sovrascrivere anche il mio parere. In realtà oggi questa canzone mi affascina soprattutto ciò che nasce intorno a questa canzone. Oggi sui giornali è sempre più palese e esce in superficie la notizia che in realtà questa è la canzone che avrebbe dovuto vincere Sanremo. Il popolo italiano aveva votato attraverso il sistema del televoto per questa canzone. Questa canzone avrebbe dovuto vincere. Era in vantaggio di 200.000 preferenze a 4 minuti dalla fine del televoto. Oggi Franco Bechis su Libero fa tutta un'analisi con indiscrezione di un dirigente Rai che conferma questa storia. Stavano vincendo. Poi qualcosa è accaduto. Come dice Bechis, 64 anni dopo il contestatissimo risultato del referendum sulla monarchia, un altro giallo elettorale segna la famiglia reale italiana. Come accadde appunto al tempo del referendum monarchia o repubblica, su cui ancora oggi i nostri anziani rimpiangono il fatto, cioè rimpiangono o rimuginano con livore il fatto che qualcuno a un certo punto, preoccupato per il sovrabbondante numero di voti a favore della monarchia, abbia fatto qualcosa. Beh, accade fatalmente per un ricorso storico su cui non possiamo non riflettere questa mattina, che gli italiani portati a giudicare il fatto che un discendente della Casa Savoia debba avere in mano uno scettro, anche se pur quello di cartapesta del Festival di Sanremo, dicono sì, lo vogliamo, e qualcuno ancora una volta impedisce che questo accada. Io credo che a questo Sanremo era meglio se venivo da solo, ma chi me l'ha fatto fare di portarmi pure il coro? Io credo nelle mie canzoni, sono uno che non si arrende, ho portato anche sti due minchioni, ma non mi son serviti a niente. Io so da mare d'Italia, ma gli italiani non amano me. E dopo questa figura di merda mi sento un po' coglione. Sentivo fischiare più forte tutta l'Italia. Naturalmente il senso di questa divisione radicale del nostro paese è stato dato il giorno dopo dell'esordio a Sanremo dell'Italia Amore Mio. Già esisteva la parodia, già esisteva il dileggio di questa canzone, già esisteva l'affermazione, se vogliamo, dell'amor patrio, di tutta la retorica legata che analizzeremo oggi nei minimi particolari, strutturalmente lo faremo appunto, legata a tutto ciò che ci sembra appartenere comunque a una sensibilità che non è più in linea con la nostra contemporaneità. E lo schifoso sberleffo rispetto a tutto quello, fatto anche molto bene, realizzato anche in maniera raffinata, usando addirittura delle voci molto simili a quelle dei protagonisti. Insomma, c'era specularmente già la reazione a quello che in realtà la canzone affermava. Ricordo quando ero bambino, viaggiavo con la Jaguar, chiudevo gli occhi e immaginavo dare una panda coupé. Tu non potevi immaginare che quella macchina inesistente, perché qui non eri mai stato e dell'Italia non sapevi niente. Sì, stasera sono qui e mi sputtano anch'io e ce ne andiamo in arrivano a sconfessare la citazione impropria del Mago di Oz, Over the Rainbow, tale quale identica alla canzone della ragazzina che balla con i suoi amici di cartapesta, di latte e via dicendo. Quindi nel dileggio anche la citazione del plagio, se vogliamo. Per dire tutto questo, probabilmente esiste un senso. E il senso, ammesso che esista, noi lo troveremo questa mattina assieme a Marco Pizzo. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento, quindi uno dei massimi esperti che ci sono sulla storia patria, sul concetto della patria, su tutti gli uomini, le persone, i fatti, le opere e le omissioni che hanno determinato il rafforzarsi e poi il deteriorarsi di questo concetto. E assieme a lui questa mattina cerchiamo di capire cosa c'è dietro questa canzone, qual è il senso profondo, di cosa è carica, per cui oggi a distanza di 60 oltre anni si ripete lo stesso clima, su un piano diverso naturalmente di riferimenti e di valori, di quando gli italiani furono chiamati a decidere se la patria doveva avere una corona in testa, doveva avere soltanto una sorta di figura turrita che rappresentava comunque altre cose. Innanzitutto la patria. La patria è l'elemento evocato da questa canzone associato all'Italia. Ci dici, Marco, come nasce questa idea e quando nasce? Quando per la prima volta si è parlato di patria in Italia? Allora, il concetto di patria nasce alla fine del Settecento, però dobbiamo dire che c'è attualmente un po' di confusione. Chiariamolo allora. Tra il concetto di Stato, il concetto di patria e il concetto di nazione. Il concetto di patria è connesso al concetto di nazione, cioè è un concetto che riguarda la cultura che unisce una collettività. Il concetto di Stato invece è un concetto di tipo giuridico. La cosa... Infatti l'uno è maschio e le altre sono femmine. Esatto. E il potere... è Stato. Invece la patria è un qualche cosa che si decide, si sceglie o per nascita o per decisione successiva. E questo è qualche cosa che inizia a penetrare in Italia alla fine del Settecento. Si consolida dopo la Rivoluzione francese con le repubbliche napoleoniche bonapartiste e poi diventa l'essenza stessa del Risorgimento. Ritornando a questa canzone, io direi che si tratta di uno splendido esempio di cultura involontaria. Cioè c'è un retaggio culturale che affiora e fa riferimento comunque a tutto quanto una formazione, che è quella scolastico elementare italiana, che comunque emerge, ed è divertente poi alla fin fine emergere quelle che sono le connotazioni testuali di questa canzone. Ecco, adesso. Se ti cominciassi a citare punto per punto questa canzone, io auguro che il pubblico ci stia seguendo in questa operazione filologica, ma è importante. Da quello che diremo questa mattina con Pizzo potremmo avere degli elementi per comprendere il senso profondo, involontario, quasi subliminale della tensione che sta attraversando il nostro paese in questi giorni. Quindi 800240024, tutti i vostri contributi nel comprendere, nel capire o nello smentire ciò che diciamo saranno per noi graditissimi. Allora, Italia amore mio, titolo, Italia amore mio. Il fatto che si esprima amore per l'Italia conferma quello che tu dicevi della donna, della madre, il rapporto erotico incestuoso con questa madre che tutto avvolge. Non solo, ma tra l'altro recupera una citazione cinquecentesca, Cesare Ripa, iconologia, come si raffigura l'Italia? L'Italia è una donna ubertosa, Florida, belle tettone sempre avute, che però rappresenta praticamente la floridezza del territorio italiano, tant'è che tutto quanto l'aggettivazione della patria è un'aggettivazione fortemente l'arato che traccia il solco, legato appunto a questa violazione del suolo femminile, proficua e feconda del suolo femminile. Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nell'equilibrio che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Qua è ambiguo, però la nostra famiglia cos'è? La famiglia Savoia? La famiglia Savoia, che è la famiglia dello Stato, e in questa unione tra Stato e dinastia è il concetto stesso della tradizione risorgimentale. Ecco, io qua dicevo che gli italiani dovrebbero sentirsi lievemente presi per il culo quando dice attorno alla nostra famiglia. Tutti si sono sbracciati in un momento di clerical familismo diffuso e ipocrita e non sentito e non profondamente vissuto, soprattutto che poi si vedono gli esempi di quanto questi propugnatori della famiglia poi rispettano la loro famiglia, fra trans, puttane, cose varie. Detto questo, quando lui dice alla nostra famiglia, quando il rampollo Savoia, l'erede al trono Savoia, dice la nostra famiglia, non può che non dire la famiglia Savoia. E questo è un esempio tipo di ambiguità poetica, cioè la famiglia è la famiglia Savoia, ma anche la famiglia allargata, contemporanea, in cui c'è la famiglia Savoia, ma c'è anche l'Italia, ci stanno tutte le classi, è un gran calderone, in cui in qualche maniera si recupera anche il concetto della tradizione dinastica familiare italiana. Quindi il messaggio subliminale è un riaffermare della monarchia, non è che c'è una apertura all'Italia repubblicana, sotto sotto riafferma la dignità, l'esistenza e il diritto di una successione monarchica. Di più, siamo tutti fratelli Savoia, cioè siamo tutti parte di una collettività, e non a caso il primo re d'Italia è Vittorio Emanuele II Savoia. Cioè l'aver affermato il secondo significa tra l'altro che l'unità d'Italia è stata fatta da una famiglia, che è la famiglia Savoia. E sulla bandiera dell'Italia, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, accanto al tricolore c'era lo scudo Savoia, sempre per un senso di appartenenza. Il bianco, la patria, è mia, Savoia. Filippo, buongiorno. Un attimo che spengo la radio. Sì. Salve Nicoletti, ecco, piacere parlare con lei. Allora, io chiamo la provincia di Vicenza, ho 32 anni, quindi sono relativamente giovane. Le stanno succedendo delle belle nella sua provincia? Ah, sì, sì, sì. Leggo di... guardi, è una provincia in cui noi vicentini, come sa bene, siamo chiamati maniagatti. Sì, non lo dica, perché sennò dopo questo riapriamo una dolorosa polemica da quale siamo stati già lambiti. No, io parlo di voci che girano su filmatini divertenti di orge ammucchiate con personaggi illustri. Mi fa molto ridere. No, questo non lo sapevo. Guardi, mi informerò, perché magari trovo anche qualcuno che conosco. Sì, tutti stanno sperando questo. Poi andiamo avanti. No, allora, per quanto riguarda la patria, io dicevo, sono relativamente giovane, ma sono cresciuto con mio nonno, che era un forte patriota, ha fatto la guerra ed era anche un monarchico, quindi sono cresciuto con... Io amo fortemente il tricolore, mi piace la bandiera italiana, mi piace l'inno italiano, ma una volta che sono cresciuto, ho cominciato a capire, a guardarmi attorno, ho visto che alla fine era tutta un po' una retorica. Anche io sono del nord, vado giù nel sud Italia, trovo tutta un'altra mentalità, un altro stato, non si è fatto niente per riempire queste differenze, quindi questo ideale di patria è un po' scemato. Alla fine sì, si riduce tutto alla bandierina, ai mondiali e all'inno d'Italia, parapapapapapa. E io sì, gli dico una cosa, non ho guardato Sanremo perché proprio non mi piace, però anche questa figura di Emanuele Filiberto per me è molto... Sinceramente dico sì, è bello, io sono stato con un'idea, sono stato cresciuto con un'idea della monarchia, una buona idea della monarchia, cioè nel senso una rappresentazione proprio di quello che è l'Italia, che è la patria, lui nostro. Dopo vedo Emanuele Filiberto e dico Dio, se questo doveva essere il re è meglio che se ne sia una... Allora, fermiamoci un attimo, Marco Pizzo, se no mettiamo troppa carne al fuoco, due concetti. L'ideale di patria sentito emotivamente, poi una volta calati sul territorio ha qualche, diciamo, qualche frattura, ma perché l'idea di patria come è stata, diciamo, concepita al Risorgimento ancora aveva una sua artificialità e non è realmente calata su un senso comune su tutto il territorio. Seconda cosa, la concezione etica nei confronti dei sovrani. Ma al tempo in cui regnavano i sovrani, la popolazione ha sempre avuto questa idea cristallina e integerrima o ne vedeva anche i limiti? Avevamo re che ne facevano di tutti i colori, abbiamo avuto negli ultimi secoli, insomma. Allora, diciamo che il concetto di patria di per sé è naturalmente, storicisticamente diverso al nord, al centro e al sud, perché è diverso anche il senso loro di partecipazione all'unità d'Italia. Nell'impresa dei mille non è stata a caso molto diversa da tutto quanto. Beh, l'hanno subita loro in qualche maniera. No, non direi che l'hanno subita, l'hanno partecipata in maniera diversa, cioè loro pensavano una cosa che poi non si è realizzata. Loro pensavano che l'impresa dei mille fosse un qualche cosa di socialismo reale, occupiamo le terre. Poi c'è Nino Bixio, c'è Bronte, ci sta tante altre cose. Ma comunque il fatto che anche un certo revisionismo storiografico vede il Meridione come un centro ideale che si è dovuto soggiogare ai Savoia, beh, va comunque interpretato che il Meridione stava sotto i Borbone, e c'era un indice di analfabetismo che c'era assoluto. Lo sai che ogni anno a Civitella del Tronto ci sono persone che si riuniscono e commemorano l'ultima fortezza borbonica. Ancora c'è questa percezione che i Borbone potessero essere la dinastia che realmente lo regnare al sud. Ma perché poi subito dopo nasce il brigantaggio. Il brigantaggio nasce contro la leva obbligatoria. Però facendo un misto tra due cose, io vorrei ricordare che durante la Prima Guerra Mondiale, quando si andava all'assalto della baionetta, si gridava Savoia, perché il Savoia non era il re, era l'Italia. Il senso di appartenenza dinastico era indipendente dalle persone. Infatti D'Annunzio, però, quando fece l'impresa di Fiume, diceva Cagoia. Esattamente come oggi c'è il dileggio della canzone del Savoia, allora il gesto ardito era di prendersela con la casa regnante. Invece, se posso dire qual è il punto di forza di questa canzone, secondo me è che recupera una cosa che sta sotto la cultura di tutti gli italiani, che è il tema dell'esilio. Il tema dell'esilio è un tema foscoliano, è un tema risorgimentale, è il tema dei Mazzini, ma che nell'immaginario collettivo fa tutt'uno con il tema dell'emigrazione. La persona lontana è l'esule e l'emigrato. Ti leggo il brano così hai più modo di commentarlo. Dice il giovane Savoia: ricordo quando ero bambino viaggiavo con la fantasia, lui in esilio, capito? Chiudevo gli occhi e immaginavo di stringerla tra le mie braccia, la patria, e ritorna al senso, dicevi te. Pupo rilancia nel controcanto: tu non potevi ritornare pur non avendo fatto niente, quindi innocente, esiliato, ma chi si può paragonare a chi ha sofferto veramente? E questo è il senso dell'esilio. Il senso dell'esilio è la non commissione di una colpa, o ancora di più, una cosa addirittura di retaggio classico, la colpa della famiglia che ricade sui figli inconsapevoli vittime. Sentiamo un attimo, una sorta di excursus nella storia e nei ricorsi storici presa appunto da YouTube. Su YouTube è uscito proprio in questi giorni, sembra quasi a volere ricordare in realtà quanto ci sia poi di variegato e di strutturato diversamente rispetto a questa storia del giovane adamantino Savoia, italiano anche in esilio, una clip del giovane Emanuele Filiberto quando cantava in una sorta di recita scolastica da bambino e cantava in lingua tedesca. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, italiano vero. Abbiamo preso da un sito di reperti storici, tuttoscemo.com, dove c'è il giovane Emanuele Filiberto con un bel caschetto biondo in Svizzera con una serie di altri ragazzini che canta in tedesco. Ecco, come leggi l'aver collocato oggi in internet questo filmato? È in perfetta tradizione risorgimentale. Non ci dimentichiamo che l'Unità d'Italia, benissimo, ma Vittorio Emanuele II parlava e scriveva in francese. Quando entrò a Firenze nel 60, i fiorentini si sollevarono perché parlava un italiano sgrammaticato e non lo sapeva. Cavour scrive principalmente le sue lettere in francese. L'Italia, come patria dell'italiano, nasce successivamente. Molto è il polilinguismo. Esiste la tradizione culturale italiana, ma esiste anche una forte tradizione francese o tedesca. Non ci dimentichiamo di Trento, Trieste, l'irridentismo e il senso comunque di questa ibridazione culturale. Il fatto che canti tedesco è Italia. Melog 2.0. Con un titolo come questo non poteva non essere presente il CT della Nazionale di Calcio. Non poteva essere. Lasciate perdere i principi, i tenori, i cantanti, i presentatori. Qua c'è della sostanza. Ma non solo i fischi, ma abbiamo fatto anche così con le mani. Ma voglio dire, ma come si fa? In esilio, di nuovo. Nella notte più lunga del Festival di Sanremo, quella della proclamazione dei vincitori, l'atmosfera è caldissima. Polemiche e ribellioni come non si erano mai viste. Tutti contro Emanuele, Filiberto e Pupo. Secondi, number two. Ecco, ribellione a Pupo, perché? La presenza della patria evocata dall'erede Savoia a Sanremo ha creato dei momenti unici nella storia del Festival di Sanremo. I maestri dell'orchestra che si ribellano, stracciano gli spartiti, tirano gli spartiti sul palco. Una cosa, penso mai profanazione più alta ci sia stata nel Festival di Sanremo. La platea dell'Ariston, che di solito stanno lì come burattini, pronti a applaudire, felici, contenti, che fischia, che si alza, che si rivolta. Il CT della Nazionale, Marcello Lippe, che va lì, fa una conciona, anche lui fischiato, e dovrebbe rappresentare ciò che rimane appunto di amor patrio legato all'inno nazionale e alla squadra nazionale. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento, con lui stiamo analizzando strutturalmente e cercando le ragioni profonde, storiche e mistiche nella canzone di Emanuele Filiberto, Italia, amore mio. Come giudichi questo scombussolamento della liturgia di Sanremo? Ah, io vorrei far notare come nella triade dei cantanti ci sia un tenore che rappresenta il melodramma italiano, quindi Giuseppe Verdi. Altro elemento iperrisorgimentale. I padri della patria. Viva Verdi. E lo scombussolamento dell'Ariston è identico a quello della Fenice del 1848, rievocato da Visconti in Senso, dove il loggione tirava le carte, gli orchestrali giravano gli spartiti ed erano tutti tricolore, oppure quando a Roma, durante la Repubblica Romana, Giuseppe Verdi fece la battaglia di Legnano. È il recupero della tradizione del melodramma, è questa inconsapevolezza risorgimentale che affiora e secondo me è la cosa più interessante che nasce quando ci apprestiamo a celebrare il 2011, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi a un anno dal 2011, a un anno dai 150 anni dell'Unità d'Italia, c'è stato un segnale inconsapevole e forse non interpretato e letto nella maniera corretta e profonda come stiamo facendo noi questa mattina. 800240024, sentiamo Angela. Angela, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, ho ascoltato al telefono l'ultima parte del suo interlocutore, molto importante, articolato così. Io farò forse la figura della stupida, anzi della vecchia stupida, perché sono vecchia. Lo so, non tutti si può essere perfetti, signore. Prego. Non tutti possiamo essere perfetti. È una cosa però, un'imperfezione che capita quasi a tutti. Senti, a chi non gli capita, a me viene sotterrato prima del tempo e forse non è molto contento. Senta, signor Nicoletti, io questa mattina quando ho acceso la radio e sentire questa parlare di questo ragazzo, mi sono sentita offesa. Le dirò perché. Ero una bambina quando le donne hanno votato per la prima volta e mia mamma mi ha preso per mano e mi ha portato al seggio. Non le dico, non è il caso, la confusione, perché era una massa di gente, si faceva la coda così. E tutti, ma non sapevano, dicevano, dicono che vince il re o qui o là. Poi in casa mio padre comprava il giornale, che a me doveva essere vietato, naturalmente andavo a sbirciarlo. E comunque non, forse un'impressione dei tempi di allora che non lo volevano. A me i Savoia non sono mai piaciuti, ma anche perché andando a scuola e studiando così, erano l'epoca, poi mi ricordo, in cui c'è stata anche le manifestazioni per Trieste italiana, eccetera. Ma l'impressione che ho avuto è che i Savoia, che tra l'altro parlavano francese, come ha detto anche il professore, che l'italiano non lo sapevano. Questo ragazzo qui poi, anche recentemente suo padre in televisione, intervistato, non lo so, stava dicendo pigliando una cantonata, dicendo sciocchezze, la moglie di fianco le ha dato una gommitata e gli ha detto in francese di piantarla, cambiare registro, eccetera. Questo ragazzo mi sì, perché si è parlato anche di storie lievemente pelose, come meglio non siamo qui adesso, solleviamo un velo pietoso su questa cosa. Questo ragazzo mi ricordo che una delle prime volte che l'hanno messo in scena, diciamo così, ha chiamato l'Italia questo villaggio, perché village non so da che lingua provenisse, comunque l'italiano non lo parlavano, non l'hanno mai parlato, non lo parlavano. Village People forse aveva in mente, che è aveva in mente un gruppo musicale forse a lui caro, Village People. Beh, prego. Vabbè, poi hanno sposato stranieri, stavano bene all'estero, sono miliardari. Che cosa vuole? Oltretutto non fa bella figura, perché dovrebbe essere un po' più serio, se ha avuto, se è stato dispiaciuto, se ha avuto dolori dalla situazione quindi? Sua e dei suoi genitori. Quindi? E così io mi sento offesa che lo portino sempre a ballare in giro. Guarda, io il festival non l'ho visto, la Rai nemmeno la guardo. Sì, chiuda, concluda. Io da questa presenza mi sento offeso, perché sarò una povera disgraziata italiana, però ho sempre amato l'Italia, non andrei via dall'Italia con tutto. Vabbè, abbiamo capito, se no, la devo segare, sennò sono costretto a far partire la motosega. Il concetto è molto chiaro. Furio, buongiorno. Eccomi. Io sono frastornato dalla non capisco per quale motivo uno debba avercela con Emanuele Filiberto, che molti chiamano il principe, non so, sarà principe del Pisello. Noi non abbiamo più la monarchia, per cui il signor Emanuele Filiberto è il signor Emanuele Filiberto. Sentiamo il nostro. Può fare quello che gli pare. Sì, siamo fermi. Non mi dia solo la voce, scusi. Marco Pizzo, no. È lecito chiamarlo principe? Può fregiarsi ancora del titolo di principe? Ipoteticamente sì, nel senso che è un titolo che comunque fa riferimento a una tradizione da dinastia gentilizia. Come ci sono baroni, conti e marchesi, c'è anche un principe. A questo titolo non corrisponde il principato. È un principe come un ministro senza portafoglio, un principe senza terra, ecco. Vabbè. L'ha sdoganato Rai 3 con Fabio Fazio, per cui non capisco per quale motivo poi adesso Fabio Fazio debba far ridere le palle al mondo parlando di Emanuele Filiberto. Questo per quanto concerne Emanuele sì, Filiberto. Ma non sia così. Può fare quello che vuole. Non sia così. No, iracondo. Però voglio dire, la prenda tranquilla. Da quello che si sente in giro sembra che lo vogliano scannare, ma sto povero Cristo non ha fatto nulla. Lo dice anche Pupo. Sta pagando delle colpe che non sono sue. Beh, oddio, io penso che tanti colpevoli vorrebbero pagare le loro colpe come le sta pagando lui. Non mi sembra che sia proprio così staffilato e preso a calci nel sedere. Mi sembra che sia anzi al centro dell'attenzione nazionale. Una persona che si mette nello star system, nel mondo rutilante allo spettacolo, non ha che da fregarsi le mani e essere contento delle polemiche che alimentano la visibilità. Quindi non mi sembra una vittima. È interessante capire come metafora quello che sta suscitando. Sentiamo Furio, poi chiudiamo il giro degli ospiti. Ah, Biagio, scusate, Biagio. Furio, pronto? Sentito. Sì, Biagio, eccomi. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, io ho due considerazioni velocissime. La prima, riprendo l'inizio, il primo intervento che ha fatto il suo ospite stamattina. Marco Pizzo. Facendo la divisione tra patria, Stato e nazione. Certo, prendiamo la patria, si parla di patria. Se la patria oggi è questa, e sinceramente se il senso di patria è questo, sinceramente c'è un po' da che preoccuparsi sotto questi aspetti. L'altra considerazione, preoccuparsi in che senso? Perché sinceramente se c'è questa differenza di voti, questi numeri così alti, differenza, se fossero così, io ovviamente non ho i tabulati, non posso... lei parla di Sanremo. Parlo di Sanremo, sì. E quindi se la patria la vogliamo rivedere in quei numeri così grandi che hanno scelto una canzone, dei personaggi del genere, sinceramente io la differenza di patria la lascio restare. Cioè, torniamo allo Stato, torniamo alle cose quotidiane che sono più attuali. Vabbè, ma noi siamo qui stamattina, passiamo... serenamente una mattinata giocando con le parole, giocando con i riferimenti. La seconda considerazione volevo fare molto nessuno più si taglierà le vene per Emanuele Filiberto, ci mancherebbe. La seconda considerazione più veloce che volevo fare è che più che Emanuele, cioè questa canzone, questo personaggio ha rivalutato tantissimo il Minoretano di 15-20 anni fa. Infatti abbiamo fatto sentire prima, bravo, sì. Io lo chiamerei il Minoretano di Noi Altri a questo questo, più che però c'è una circostanza, c'è una circostanza additiva: il nome che porta non impedisce, non ha impedito che nascesse una polemica. Minoretano in fondo era il cantante degli emigranti, ritirava fuori l'idea dell'Italia perché poi andava in giro a fare tournée in Germania, in Svizzera, in Sud America, adesso non so dove, e la gente si strappava il cuore. Marco Pizzo, ritorniamo al nostro lavoro, sennò ci fanno perdere tempo e ci deconcentrano. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente. Questa è la tradizione tipica dei regnanti nei confronti delle classi subalterne. Ci sta tutta una tradizione per cui Vittorio Emanuele, la regina Margherita andavano a trovare i lebbrosi, i colerosi, le dame di San Vincenzo. Cioè la oggi vanno a trovare la clerice, infatti. Esatto, la benevolenza come beneficenza. Ma ritornando all'obiezione di prima, cioè il re, il principe a Sanremo, secondo me questo va letto, tra virgolette, in maniera alta, come un concetto invece molto più generico e generalizzato. Si assiste negli ultimi tempi alla banalizzazione della storia. Tutti sono storici, tutti scrivono, riscrivono la storia, la banalizzano su fonti inesistenti. Soprattutto i giornalisti che vogliono fare gli storici sono un po' ridicoli, diciamo la verità. Cioè, è un concetto, nessuno si sentirebbe di dare una prescrizione medica, perché dice no, non ho studiato, non sono medico, ma tutti dicono faccio lo storico, anzi se non so che cos'è un documento d'archivio. Il concetto è questo, ma nel momento in cui uno affronta poi il testo di una canzone, secondo me, se uno lo affronta con degli strumenti di filologia letteraria, è tanto più divertente. Melog 2.0. L'ultimo dei mille sopravvissuti. Non siamo mai stati mille noi. La stampa ci ha sempre ricamato sopra. Noi saremmo stati a occhi e croce 66-67. Non mille. 66 a mille. A partire dallo scoglio di quarto. Ma da quarto non siamo mai partiti. Come non siete partiti da quarto? Noi partimmo da Taormina. La stampa ci ha ricamato. Noi ci trovavamo tutti a Taormina per le vacanze balneari, quando una sera a una cena in piedi ti incontro sto Peppino Garibaldi, il generale, un bel ragazzo che si dava le aria da sto cavolo, si credeva chissà che, l'ha dimostrato anche, si credeva chissà che sto Garibaldi, allora però è nata un'amicizia, c'aveva un sacco di donne dietro, allora verso le 4 della mattina a sta festa, a stasera fa, dice venite tutti con me che vi offro i cannoli caldi, andiamo tutti a Marsala. E allora partimo da Ormina per Marsala e da Marsala riviamo un barcone, una zattera per andare a Messina. Che lui questo è Carlo Verdone nella sua rilettura dell'impresa dei mille nella parte del Reduce Garibaldino. Ma noi con Marco Pizzo ci siamo presi un impegno che porteremo puntualmente a termine entro la fine di questa trasmissione. Marco Pizzo, ricordo che è il direttore del Museo Centrale del Risorgimento, ha un ufficio proprio al centro dell'altare della patria, sotto le palle del re Vittorio Emanuele, c'è l'ufficio di Marco Pizzo, quindi lui sa esattamente di cosa stiamo parlando. Marco, io credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il mio cuore di un'Italia sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia. Allora, facciamo filologia testuale. Sì. La cultura è la mia religione. È chiara la ripresa del principio mazziniano praticamente di Dio e popolo. La religione della patria, che sovrintende a qualsiasi tipo d'azione. Ma la cosa interessante è che tutto quanto questo viene coniugato da un'idea di Italia sola, conto quindi una qualsiasi ipotesi di disgregazione, e che l'Italia sola dipende dalla sua storia, cioè la matrice culturale dell'Italia unita. Tutto quanto questo cosa recupera? Recupera il concetto di Italia come patria nazionale che è di Guicciardini e di Machiavelli. Ma secondo te queste citazioni erano ben lucidamente presenti nella mente di Emanuele Filiberto quando ha scritto questo testo? No, erano presenti a livello freudiano, sono della cultura inconsapevole. Erano nel suo DNA? Erano nel suo DNA, è nel DNA degli italiani. E non a caso il DNA degli italiani è fatto dell'Italia culturale. Sì, stasera sono qui per dire al mondo e a Dio Italia amore mio. Io non mi stancherò di dire al mondo e a Dio Italia amore mio. Perché? Qui c'è un calo di tensione poetica, però il concetto è ribadito. Il concetto è ribadito e questa non a caso questo è un distico di tipo religioso. C'è una ripetizione doppia del concetto di Dio che coniuga il concetto della patria con la divinità. È Dio che dà lo Stato e sottintende su due piani, lo Stato e la patria. Quindi il Rampollo Savoia ribadisce il fatto che per diritto divino lui è re. Sotto sotto. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Volevo offrire uno spunto alla discussione. Offra generosamente. Nella parte precedente, quando avete letto la parte di Pupo, io alla TV l'ho sentita diversamente, perché diceva senza mai paragonarsi a chi ha sofferto veramente. Quindi sono due testi diversi, quindi per un filologo... Io il testo che mi sono stato stampato, ma chi si può paragonare a chi ha sofferto veramente? Non ci si può senza mai paragonare... Paolo Saga, adesso che me lo dice, ha ragione. In effetti nella canzone ha cantato questa frase. Sì, sì. Non c'è punto interrogativo, sì. Quindi diciamo, non ti sei pianto addosso, sei stato in esilio, sei stato zitto e non hai messo te a paragone di chi ha sofferto, certo, veramente. Di chi davvero ha sofferto. Cambia qualcosa Marco Pizzo? Sì, profondamente, se fosse così. Beh, cambia, perché la cosa divertente è che se uno si scarica il testo su internet ci saranno delle variazioni lessicali. Quindi facendo il puntiglioso si potrebbe fare anche un'analisi comparata del testo. Una collazione dei testi. Nella prima quartina c'è nell'equilibrio che si unisce, che invece è nel sentimento che ci unisce. La variazione tra equilibrio e sentimento è una variazione di tipo storico, culturale. Il sentimento è squilibrato per sua naturale composizione. E quindi c'è un mutamento di senso. Quindi questa canzone è talmente poliedrica e mutevole che in realtà è scritta come fosse scritta nell'acqua, come è scritto nell'acqua probabilmente il nostro senso patrio, che stiamo cercando questa mattina di risupportare di elementi storici. Francesco. Buongiorno Nicoletti. Eccomi. Io penso che il concetto di patria e il sentimento patriota va basato su una storia e su una memoria condivisa. Questo oggi non c'è, perché la retorica del risorgimento nasconde o comunque nega tutti gli errori che sono stati commessi in quel periodo. La distruzione del regno delle due Sicilie, che non era la patria dell'analfabetismo, come invece ritiene il direttore del museo. Il tradimento di Vittorio Emanuele ai danni di un suo parente, Francesco II di Borbone. Il massacro dei briganti, patrioti, che combattevano per restituire le terre al re. La fortezza di Fenestrelle in Piemonte. Dove lei è un filo borbonico, non che sia un insulto. Io sono un napoletano milanese filo borbonico e sono diventato filo borbonico dopo aver letto sul mio libro del liceo che il plebiscito per l'annessione del Regno di Napoli al Regno d'Italia avvenne a suffragio universale. Ma io, se lei ha sentito attentamente, ho citato, perché conosco molte persone che diciamo studiano e approfondiscono con passione quello che lei sta dicendo, ho notato che esiste ancora, ho detto, a Civitella del Tronto ogni anno c'è il raduno dei filo borbonici che commemorano nell'ultima fortezza borbonica il fatto che i Borboni furono una realtà. Marco Pizzo, di questa realtà che esiste, di cui bisogna avere comunque attenzione e rispetto, cosa dici? Allora, io dico che bisogna attenersi alle fonti, e siccome io sono anche un appassionato di matematica, direi che la fonte di riferimento sono i dati dell'Istat che nel 1861 fece il primo censimento nazionale. Allora basta vedere com'era censita la popolazione meridionale nel 61 e nel 71 da un'equipe di matematici statistici per renderci conto di quelle che sono le reali condizioni. E quali erano? Erano delle condizioni di disastro epocale, perché innanzitutto la proprietà era nelle mani di una ristrettissima gerarchia che non a caso esisteva il latifondo. E il concetto di analfabetismo era talmente diffuso perché non c'era spesso la registrazione allo stato civile dei nati. Ecco, uno deve riflettere quando parla del disastro dell'annessione del meridione su quello che era il meridione. Non ci dimentichiamo che nel 1859, quindi prima dell'unità d'Italia, il regno Sabaudo proclamò la necessità di una istruzione obbligatoria che venne diffusa nel 61 anche a tutto il resto dell'Italia. Ecco, vorrei adesso farti sentire, visto che abbiamo colto in questo momento Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da YouTube, un nuovo pezzetto di questo mosaico che stiamo ricomponendo. In occasione di un grande incontro di mondiali di calcio, adesso non so esattamente che anno più o meno, nel 90, ecco, Italia 90, ci fu qualcuno che pensò di usare un normale e consueto strumento di intelligence, anzi di attacco al nemico, che in questo caso erano proprio i tedeschi, capito? Investendo due personaggi molto importanti, un personaggio è stato anche ha avuto anche l'onore di sedere nei banchi del Parlamento italiano, di fare un'azione diversiva e di disturbo e di indebolimento delle forze dell'esercito nemico, e questo è il risultato. Ecco, vedi, Cicciolina e Moana dovranno distruggere i nostri avversari più famosi con l'amore, quello che soltanto loro sanno fare. Avvicineranno gli assi di ogni squadra con uno stratagemma e li sfinivanno facendoci l'amore. Eccoci qua. Io e Cicciolina siamo a completa disposizione per difendere i colori dei nostri. Allora, quando si comincia? Beh, siamo nelle vostre mani. Credete veramente di riuscirvi? Certo, non ci sono dubbi. Non credo che ci siano uomini capaci di resisterci. Buon pomeriggio, signore. Cosa desiderare, Fräulein? Sono venuta a cambiare le lenzuola. In Germania le lenzuola si cambiano solo al mattino. Da noi invece le cambiamo sempre. Io credo ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto in un paese più normale. Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia amore mio. Marco Pizzo, in quest'ultima strofa, qual è il sogno del cassetto? Il sogno del cassetto è quello comunque di ritrovare una patria che è la patria ideale. E il senso è che proprio come cultura risorgimentale non esiste mai la patria reale. C'è la mancata collimazione tra la patria ideale e la patria reale. Cercarla comunque impegna il tempo, è sempre meglio comunque che perdere tempo. Grazie Marco Pizzo, grazie Alessandro Cappini e Fabrizio Intonti, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.